La parentela dedotta dai reperti di cimiteri e villaggi. Un tipo di distribuzione spaziale che distingue la società dell'antica Europa dalle successive culture patriarcali è rintracciabile nei villaggi antichi europei. Negli scavi dei siti neolitici talvolta si trovano case che sono più grandi e meglio costruite delle altre. Spesso si trova una casa grande al centro di un grappolo di edifici minori. La casa più grande era la casa centrale di un nucleo familiare o di un lignaggio. Infatti, sia nei cimiteri sia in qualunque altro aspetto della vita antica europea, manca la sia pur minima prova di una società di tipo gerarchico o patriarcale. I templi sono stati trovati all'interno di un gruppo di diversi edifici. L'edificio più grande, distinto non solo per le dimensioni ma anche per la quantità di oggetti e rituali trovati al suo interno, era circondato da case più piccole. Molto probabilmente le case ospitavano i membri di un medesimo lignaggio, discendenti da un'unica antenata ancestrale. Il santuario sarebbe stato gestito dai membri femminili delle famiglie delle case circostanti. Il tempio era essenzialmente un santuario familiare mantenuto dai membri della famiglia stessa. I segni tipici delle società patriarcali erano assenti dai cimiteri e dai villaggi dell'Europa antica. Da nessuna parte si trovano le prove che ci si aspetterebbe da una società patriarcale: sepolture individuali di maschi aristocratici, disposte in modo tale da rispecchiare il loro potere temporale. Il ruolo del maschio nel simbolismo e nel mito. L'elemento maschile nel simbolismo era ben lontano dall'essere preminente come nella cultura patriarcale. Nel sistema simbolico dell'antica Europa, gli animali e gli esseri umani di sesso maschile sono lo stimolo e il rinforzo della vita. Sono una parte importante del processo del divenire, ma non creano la vita. Il ruolo del dio maschile è quello di consorte della grande dea madre. È un ruolo che si celebra nei riti festivi delle nozze sacre, lo hieros gamos, un accoppiamento rituale che assicurava il regolare processo del ciclo della vegetazione e assicurava fertilità e felicità per la terra. Si tratta di un rito ben noto anche in epoca storica, anche se sono rare le immagini neolitiche che ritraggono una copula. In epoca storica lo hieros gamos veniva celebrato con inni a Sumer o presso altre culture del Medio Oriente e anche nell'India. Per quanto riguarda la tradizione celtica, per esempio, il regno veniva concepito in senso antropomorfico come una figura femminile che simboleggiava non soltanto la fertilità o la prosperità della terra, ma anche il dominio spirituale e giuridico. Le leggende irlandesi che appartengono al ciclo dell'Ulster, per esempio, conservano forti tracce di un rituale preistorico nel quale la grande dea madre conferiva prosperità a un popolo scegliendo il suo compagno tra i suoi devoti di sesso maschile. Il tema ricorrente anche nell'iconografia delle nozze sacre è quello dello sposo che giunge sulla sua imbarcazione dal mare aperto e consuma le nozze sacre nel santuario della dea. La dea sacerdotessa, che svolge il ruolo della sposa divina, si affaccia dal balcone, ha il braccio destro sollevato, sembra che saluti la flotta e la barca che trasporta il suo sposo. È lo sposo che si muove alla volta della sposa. Non c'è traccia della sposa che abbandona la sua casa. Le nozze divine della dea con uno straniero, che giunge dal mare, hanno luogo nel tempio di lei, secondo la tradizione matrilocale. Il potere collettivo delle sacerdotesse e delle donne in genere. Dalle prime fasi del Neolitico in avanti, la dea, il cui ruolo è svolto dalla sacerdotessa, è raffigurata con una corona sul capo o seduta su un trono. Nei documenti storici più antichi e nel folklore è chiamata regina, padrona, matrona o signora. La dea sacerdotessa è assistita da altre sacerdotesse e inservienti, il cui numero varia da 2 a 3, 4 o 9, fino ad un intero collegio. le attendenti svolgevano diversi incarichi nei rituali e nella manutenzione del tempio. Le sacerdotesse e le attendenti del tempio sono riprodotte in dimensioni diverse e sono segnate con diversi disegni simbolici. Accanto alla dea stavano le sacerdotesse, che probabilmente formavano un concilio per le decisioni importanti. Concili di 9 donne sono menzionati nei documenti proto-storici e se ne fa menzione nelle mitologie europee. La sacerdotessa maga della Scandinavia, conosciuta con il nome di Völva, aveva un concilio di 9 sagge. Assemblee di 9 sacerdotesse o muse sono ben note nell'antica Grecia. La sacerdotessa, o la dea, è raffigurata molto più grande rispetto alle sue attendenti ed è riccamente decorata con i suoi simboli speciali, chevron e triline. Le comunità di sacerdotesse e i concili di donne, che devono essersi diffusi per millenni nell'antica Europa e a Creta, proseguì nell'era patriarcale, ma soltanto nei rituali religiosi. Nella Grecia antica, in occasione del rituale delle tesmoforie, la festa di Demetra, dedicato alla fertilità della terra, le donne sceglievano tra di loro una che presiedesse il concilio, nel quale venivano votate delle decisioni a maggioranza. Agli uomini non era permesso partecipare. Comunità di sacerdotesse dalla grande potenza collettiva sono ben conosciute all'inizio dell'epoca storica come sorellanze di incantatrici, note per esempio dalle iscrizioni galliche, e come collegi di sacerdotesse che vivevano in isole il cui accesso era vietato agli uomini. Menzionate per esempio dagli storici latini Strabone e Pomponio Mela del primo secolo d.C. Le sacerdotesse, come oracoli, profetesse e maghe, sono note fino in tempi moderni nel folklore e nel mito. Gruppi di fate che danzano formando cerchi o spirali o attorno a cerchi di pietre, sprigionando un'enorme energia. Sono ricorrenti queste immagini nel folklore dalla Scozia alla Bulgaria fino anche nel XX secolo. La dea maga, che originariamente era la dea della morte e della rigenerazione, ma che più tardi fu considerata una maga e soprattutto una strega, sopravvive fino al giorno d'oggi, per esempio, nella dea Mari dei Paesi Baschi, nella Mab irlandese, nella Ragana del Baltico, nella Freja in Scandinavia e in Holla in Germania. Queste dee compaiono da sole, o con un grande seguito, ed esercitano un potere sovrannaturale sul controllo della natura, la luna, il sole, le eclissi, le tempeste e la grandine. Distruggono o preservano la fertilità dei campi e soggiogano la sessualità maschile. I seguaci dell'Inquisizione, per esempio nella Spagna del XV secolo, sterminarono un gran numero di streghe. Chiunque praticasse i riti della dea e conoscesse erbe medicinali e altre tecniche di guarigione era perseguitato. Tra le molte denunce che riportano i poteri delle streghe, c'è questa frase importante depositata da un soldato all'inquisitore: hanno un tale potere in ragione delle loro arti che è sufficiente per loro pronunciare un comando e gli uomini devono ubbidire o perire. Miti e credenze descrivono quindi il sesso femminile come il sesso forte, dotato di poteri magici. Sopravvivenze della struttura sociale matrilineare nella Creta minoica, nel Nord Egeo, in Etruria e in Iberia. Dopo aver raggiunto l'apice culturale nel quinto millennio avanti Cristo, l'Europa antica incominciò a decadere e gli elementi della cultura indoeuropea, importati con la forza e con la violenza dagli invasori provenienti dalla Mongolia e dal Caucaso, quindi religione, economia e struttura sociale patriarcale, finirono per imporsi in Europa. Le divinità della religione indoeuropea possono in generale essere categorizzate all'interno di 3 classi: il sovrano, il guerriero e il produttore, che include l'artigiano. E in generale la figura di chi produce qualcosa con le mani. L'Europa indo-europeizzata era composta da società gerarchiche divise nelle stesse 3 classi. Patriarcato, classi sociali e belligeranza divennero la norma. Ma la cultura dell'Europa antica matrifocale non fu completamente eliminata. Una certa influenza antica europea si avverte nel ruolo delle donne in alcune società europee all'inizio di questa epoca storica. La sopravvivenza dei costumi dell'Europa antica è documentata da resoconti storici che non solo offrono una conferma della natura matrifocale della società antica europea, come suggeriva già la ricerca archeologica, ma offre anche dettagli circa le usanze matrifocali che l'archeologia non può conservare. Per esempio, una delle regioni che conservò più a lungo degli elementi di cultura antica europea fu l'Egeo, dove furono trovati documenti che descrivono usanze matrilineari. La cultura minoica di Creta, in relazione alla sua collocazione geografica, conservò usanze matrilineari molto più a lungo rispetto ai suoi contemporanei del continente. Una gran quantità di arte religiosa, reperti architettonici e sepolcrali della cultura minoica attesta l'importanza della femmina e dei modelli di trasmissione matrilineare della cultura. Anche dopo l'arrivo dei Micenei, cioè degli indoeuropei che assalirono Creta dalla Grecia, le tradizioni matrilineari rimasero comunque forti. Nel primo secolo a.C., lo storico e geografo greco Strabone documentò il matrimonio matrilocale cretese e l'esistenza di questo costume è confermata dalle prove delle leggi matrimoniali conservate nel codice di Gortina del V secolo a.C. Le leggi stabiliscono che la donna manteneva il controllo sulla sua proprietà anche dopo il matrimonio e che era libera di divorziare qualora l'avesse voluto. Un altro aspetto del sistema matrilineare dell'Europa antica era il ruolo importante sostenuto dal fratello della donna. Al fratello toccava tra l'altro l'educazione dei figli di sua sorella. Un'altra area che conservò alcuni elementi del sistema matrifocale è Sparta. Benché Sparta avesse incorporato molti elementi della struttura sociale guerriera indoeuropea, come l'enfasi sulla guerra, la collocazione isolata della città-stato al centro della penisola greca del Peloponneso contribuì a preservare alcuni elementi dell'Europa antica. Anche gli Etruschi dell'Italia centrale conservarono usanze matrifocali. Questa civiltà si sviluppò a partire dall'VIII secolo a.C., ma subì un progressivo declino dopo il V avanti Cristo, quando incominciò una graduale assimilazione con Roma. Le donne etrusche giravano nude, senza nessun imbarazzo, in mezzo agli uomini e ad altre donne. Amavano bere, vestivano in modo simile agli uomini, portavano addosso anche i simboli della cittadinanza e del rango, mantelli e calzature alte. I nomi delle donne etrusche rispecchiavano il loro status giuridico e sociale, in forte contrasto con le usanze romane, secondo le quali una donna non possedeva un nome tutto suo. Infatti, prima che una donna romana si sposasse, era conosciuta come la figlia di suo padre e dopo il matrimonio come la moglie di suo marito. In contrasto con le donne romane, le donne etrusche svolgevano ruoli importanti come sacerdotesse e veggenti e costituivano una forza politica. Molti altri aspetti della società etrusca rispecchiano una successione matrilineare e un ordinamento familiare matrifocale. Lo storico Teopompo sosteneva che le donne etrusche allevassero i propri figli sia che questi conoscessero il proprio padre, sia che non lo conoscessero. Questa matrifocalità era probabilmente correlata al diritto della donna di mantenere la proprietà e alla successione matrilineare che si ripercuoteva anche nei nomi propri. Nelle iscrizioni etrusche le persone sono denominate solamente mediante il nome della madre. La sopravvivenza delle pratiche matrilineari non è semplicemente una particolarità della Grecia antica e dei mondi dell'Egeo e del Mediterraneo. La si ritrova anche in aree periferiche dell'Europa occidentale e settentrionale, dove l'influenza delle invasioni indoeuropee fu più debole. Tra le culture antiche e moderne che conservano questo aspetto dell'eredità dell'Europa antica ci sono i Baschi di Spagna e Francia, gli Iberici e i Pitti di Scozia. Altre culture, che furono prevalentemente indoeuropee ma che conservarono anche tratti matrilineari, furono i Celti, i Teutoni e i Baltici. Una delle civiltà più importanti tra quelle che conservano le radici dell'Europa antica e che sopravvive fino ad oggi nella Spagna settentrionale e nella Francia sudorientale è quella dei Baschi. I baschi possiedono una cultura del tutto non indoeuropea, con la sua lingua non indoeuropea e il suo folklore. Il suo codice giuridico e le sue usanze matrilineari che affondano le radici nei tempi dell'Europa antica. Il sistema di leggi basco conferisce alla donna un alto status in quanto erede, arbitro e giudice, tanto in epoca antica quanto in epoca moderna. Le leggi che stabiliscono la successione nella regione basca francese trattano gli uomini e le donne con assoluta parità. Un'altra cultura antica europea della penisola iberica era quella degli iberici, le cui pratiche matrifocali furono descritte dallo storico e geografo greco Strabone nel primo secolo a.C. Scrive: tra gli iberici è l'uomo che porta la dote alla donna. Alle figlie vanno in eredità i beni, e da loro vengono assegnate le spose ai fratelli. In tutte le loro usanze, la loro condotta sociale è una sorta di ginecocrazia. Più a nord, in Europa, antichi documenti scritti conservano memorie di culture antiche europee nelle isole britanniche. La regione attualmente chiamata Scozia fu abitata da una tribù nota con il nome di Pitti, che non parlava una lingua indoeuropea e che si sottrasse all'indoeuropeizzazione per parecchio tempo, perché l'impero romano non si estese mai al di là del Vallo Adriano. Anche i Pitti conservarono le leggi matrilineari e la religione della dea con i suoi simboli. In questa cultura la trasmissione della proprietà era matrilineare. Un'altra usanza pittica, ancora praticata in alcune zone delle Highlands scozzesi fino ai primi anni del XX secolo, prevedeva che la donna restasse nella casa dei suoi genitori anche dopo il matrimonio. Invece, gran parte dell'Inghilterra e dell'Irlanda fu occupata, in epoca preromana, dalle tribù celtiche, che, benché parlassero lingue indoeuropee, mantenevano ancora molte usanze dell'Europa antica, come per esempio la devozione verso la dea e la successione matrilineare. I racconti tradizionali irlandesi descrivono il matrimonio come un evento essenzialmente matrilocale. La letteratura primitiva dell'Irlanda e del Galles conserva leggende di eroi celtici che, come gli eroi dei greci, lasciano la propria casa per cercare un'ereditiera da sposare e dividere con lei il dominio sulla sua terra. Le leggi dell'Irlanda antica e del Galles insistono sul ruolo importante assegnato al fratello materno, che rappresentava il ceppo maschile materno, così come un ruolo importante era assegnato al figlio della sorella che ereditava la proprietà. È assai probabile che la successione matrilineare fosse la regola dell'antica società celtica. In sintesi, i documenti antichi e l'archeologia sono concordi nell'attestare l'importante ruolo sociale della donna celtica, che godeva di un prestigio personale e poteva possedere dei beni anche se il sistema giuridico celtico era fondato su usanze patriarcali indoeuropee. La regione di Gaul, nella Francia odierna, ai tempi dei Romani era abitata da tribù celtiche. Nel primo secolo a.C. lo scrittore greco Diodoro Siculo descrive le donne galliche come non solo uguali in statura ai loro mariti, ma anche in grado di rivaleggiare con loro in quanto a forza fisica. Una delle figure storiche più conosciute dei Celti fu Boudicca, una regina celtica che visse sull'isola britannica. Si trattava in realtà della vedova di un re celtico, una principessa degli Iceni, che istigò una rivolta contro i Romani, reclamando il proprio diritto di successione. Il romano Dione Cassio la descrive con reverenza. Era di costituzione imponente, scrive, d'aspetto terrificante. Una gran massa di capelli rosso fuoco le scendeva fino alle ginocchia. Portava avvolta al collo una grande collana d'oro e una tunica multicolore sotto un grosso mantello chiuso da una spilla. Gli scavi archeologici nella Francia orientale e nella Valle del Reno hanno portato alla luce tombe estremamente ricche di donne celtiche dell'età del ferro, databili dal VII al IV secolo a.C. Queste donne appartenevano alle culture celtiche di Hallstatt e di Latène. Anticamente, alcuni tratti matrifocali persistevano anche in Scandinavia e in Germania, dove la relazione materna era considerata più importante rispetto a quella paterna. Tra i Turingi, se un uomo moriva senza figli, la sua proprietà passava alla sorella o alla madre. Tra i Burgundi, i diritti e i titoli delle case regnanti passavano attraverso le donne. Tra i Sassoni, una rivendicazione al trono non era considerata completa finché l'aspirante non avesse sposato la regina. In svariate tribù germaniche, la successione matrilineare era la norma e il regno veniva ereditato mediante il matrimonio con la regina o la principessa. Fino all'VIII secolo d.C., in Scandinavia, il regno passò dalle figlie ai loro mariti. I più antichi documenti storici delle tribù nordiche e germaniche sostengono che gli uomini venivano spesso chiamati secondo il nome della madre piuttosto che del padre. La stessa pratica si è vista tra le culture non indoeuropee dell'Egeo. Nelle culture del periodo protostorico rimanevano molti elementi della cultura dell'Europa antica. Uno dei più visibili è la matrilinearità e la trasmissione dei beni lungo la linea femminile della famiglia. Anche la successione al trono o la posizione di potere passava lungo la linea femminile da madre a figlia. Si può vedere l'importanza del lignaggio femminile nei nomi di persona che seguono quelli delle madri più che quelli dei padri. Nelle culture indoeuropee più vicine a noi, la società patriarcale, con la sua enfasi sul combattimento e sul valore delle armi, trova un suo calco nella religione, con divinità guerriere, e nel simbolismo religioso con l'enfasi per i motivi bellici. Parte seconda. Le dee viventi. Il contatto tra le culture dell'Europa antica e quelle indoeuropee, del tutto opposte in quanto a struttura sociale e ideologia, sfociò nelle culture europee che conosciamo dall'inizio dell'epoca storica fino ai giorni nostri e che ci vengono fatte studiare nelle nostre scuole. La lingua, le credenze e la struttura sociale degli indoeuropei prevalsero, ma non sradicarono ovunque la religione e le usanze degli indigeni dell'Europa antica. Il contatto tra le due culture si risolse nel loro amalgama. La religione e le usanze dell'Europa antica rimasero come una forte corrente carsica che influenzò lo sviluppo della civiltà occidentale. In alcune zone, come la Creta minoica e le isole dell'Egeo, una civiltà e una religione interamente teacentrica e ginecocentrica perdurò fino alla prima metà del secondo millennio avanti Cristo. Altrove, alcune culture veneravano ancora le divinità antiche europee, benché avessero adottato una struttura sociale di tipo gerarchico come quella indoeuropea. I Micenei in Grecia, gli Etruschi in Italia centrale e i Celti in Europa centrale, in Inghilterra e in Irlanda sono un esempio di questa tipologia di miscellanea. E così pure, almeno fino a un certo punto, le culture baltiche, slave e germaniche. La religione e le usanze dell'Europa antica sopravvissero perché sopravvissero gli abitanti stessi dell'antica Europa. Nelle aree geografiche in cui gli indoeuropei si assimilarono agli antico europei, i pastori indoeuropei divennero la classe egemone dei guerrieri. Gli antichi europei restarono ai ranghi dei contadini e degli artigiani, mantenendo le loro usanze e le loro credenze. Con il tempo, i due gruppi adottarono ciascuno le divinità e le pratiche dell'altro, fondendo le caratteristiche delle divinità in un'unica cultura. Le potenti dee ereditate dal Neolitico si diffusero lungo tutta l'Europa, ma il loro stato di conservazione varia da regione a regione. Le più tenaci sono la portatrice della nascita e della vita e la dea della morte e della rigenerazione. I documenti storici, le opere letterarie e le sopravvivenze nel folklore fanno luce sui reperti archeologici, permettendo una più completa ricostruzione di queste immagini della preistoria.